Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Al termine della partita ho parlato con il presidente federale, con Demetrio Bertini, con Antonello Valentini, e visto che il progetto tecnico è di mia responsabilità, ho detto loro che rassegno le mie dimissioni. Avete sentito, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, come è finita male l'avventura dei mondiali per l'Italia e anche per il povero Prandelli? Dico povero perché insomma è vero che nel calcio funziona così e negli altri sport, nei giochi di squadra, la colpa è dell'allenatore, non solo nei giochi di squadra, ma diciamo che qualche fiacchezza anche da parte dei giocatori si è vista. E queste, avete sentito, sono le dimissioni di pochi istanti fa, proprio due minuti fa, di Prandelli da tecnico della nazionale. Peccato, dico, anche perché come figura di uomo, di allenatore, è molto molto meglio anche umanamente di molti altri, però per il momento la cosa è andata così, e tra poco vi racconto la giornata, ma sicuramente per l'Italia diciamo che questa è la notizia principale, se non anche la più recente, visto che la sconfitta è di non molto tempo fa e le dimissioni di Prandelli sono proprio di questi momenti. Di questo e di molto altro parleremo stasera. Comunque, se volete commentare questa partita, ho già visto diversi messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte e ne condivido più o meno quasi tutti quelli che ho visto per ora, e poi ci avete sempre il numero per gli SMS, che è il 349 238 6666. Ma cominciamo quindi con il riassunto della giornata di oggi. Mondiali, è finita appunto, una brutta Italia, torna a casa, Prandelli si dimette, come avete sentito, dice io responsabile, anche se in parte dà colpa anche all'arbitro, all'arbitraggio, e Buffon, il portiere, dice un fallimento, giusto uscire così, è stato espulso Marchisio, gli azzurri in genere però hanno molto criticato l'arbitro. Unione Europea, Renzi presenta il programma della presidenza italiana e dice non vogliamo vivere l'Europa come fosse una vecchia zia noiosa. Omicidio di Cogne, i periti assicurano che non c'è rischio di recidiva e chiedono la detenzione domiciliare. Il procuratore generale dà però parere contrario, intanto il tribunale si riserva di decidere. Gli scontri di Coppa Italia a Roma, in coma irreversibile Ciro Esposito, il tifoso ferito a colpi di pistola fuori dall'Olimpico prima della finale. Nigeria, Boko Haram ancora in azione, i guerriglieri rapiscono altre donne e bimbi nel Borno. Sudan, continua l'incubo di Meriam, liberata ieri, è stata fermata oggi all'aeroporto, forse solo un controllo di documenti, ma l'allarme resta. E partiamo quindi da questa partita che segna l'addio della nazionale italiana dei mondiali di Brasile 2014, una sconfitta mondiale, si può dire, contro l'Uruguay, che ha battuto l'Italia 1-0. Avete sentito poco fa le dimissioni di Prandelli, quindi è stata veramente una sconfitta a tutto campo questa, e poi ne parleremo tra poco con il nostro inviato Dario Ricci, vedremo anche in che condizioni sarà lui stesso, sta preparando anche molto materiale per il resto della radio, ci collegheremo anche per sentire quali sono gli umori, che è facile anche naturalmente intuire. Adesso però intanto parliamo del Presidente del Consiglio Matteo Renzi, che alla Camera ha presentato il programma di quella che sarà la presidenza italiana dell'Unione Europea, proponendo un pacchetto di riforme da attuare in 1000 giorni. Siamo a un bivio storico, ha detto Renzi, non bisogna alzare la voce ma l'asticella delle ambizioni. Oggi noi viviamo un momento nel quale culturalmente ci si apre di fronte un'autostrada o una prateria. Si è, nella stragrande maggioranza, lo dimostrano anche le discussioni di questi giorni, convinti che la politica economica e finanziaria di questi anni, se da un lato ha messo al riparo l'euro da situazioni di difficoltà, non ha consentito all'Europa di crescere e di fortificarsi. Chi oggi facesse finta di non vedere il risultato elettorale non farebbe politica, perché il risultato elettorale in Europa è il risultato elettorale in cui si è dato un campanello di allarme molto forte alle istituzioni europee, e quindi chi vuol bene all'Europa oggi ha il dovere di salvare l'Europa. I conservatori, intesi non come parte politica, ma coloro i quali non vogliono cambiare niente in Europa, devono sapere che con la loro ostilità rischiano di bloccare il processo di integrazione e di crescita dell'Europa. Renzi ha anche lanciato la candidatura della ministra degli esteri Federica Mogherini al posto dell'alto rappresentante per la politica estera europea in sostituzione di Catherine Ashton. Ma vedo Prandelli a Sky Sport, vediamo se riusciamo a sentire qualche suo commento dopo le dimissioni. Volevo essere sicuro di una cosa perché... No, mi stanno facendo delle domande adesso, cioè, stava parlando. Quanto ho capito, sia te Cesare che lei Presidente, queste dato le dimissioni a prescindere dal risultato che poteva ottenere l'Italia in questo europeo? Ho sbagliato, no? No. Perché Sandelli parla di cose precedenti che avevano dato fastidio. No, io... E lei Presidente pure ha detto... L'emozione ha fatto dire europeo, forse per le dimensioni, diciamo, piuttosto limitate di questa prestazione. Sandelli mi sembra non c'è necessità che faccia... sia stato molto chiaro... lo risentiamo magari dopo se c'è la possibilità. Adesso invece andiamo sulla politica, sulle tensioni relative alle riforme, proprio alla vigilia dell'incontro che avviene domani tra PD e Movimento 5 Stelle. Grillo definisce la riforma del Senato una porcata e l'incontro tra Movimento e Governo si preannuncia già difficile. Ad aggravare la situazione anche gli insulti sessisti sul blog di Grillo contro il ministro Maria Elena Boschi, che secondo i commenti più soft era meglio se faceva la pornostar. Per il leader del Movimento 5 Stelle la riforma è solo un contentino al popolo. Si toglie l'immunità per rendere più passabile la porcata, così Riccardo Nuti. È una proposta ancora molto monca, una fuffa direi, perché ancora non si è chiaro a cosa si vuole arrivare. Intanto Boschi incontra Paolo Romani di Forza Italia, che si dice soddisfatto il governo e attento alle nostre proposte. Da parte della minoranza PD Vannino Chiti presenta un emendamento per abolire l'immunità, mentre il segretario della Lega Matteo Salvini è a favore. Ho visto troppi arresti fondati sul nulla e senza neanche un bigliettino di scuse, gente che è stata in galera per uno, due o tre mesi per dire che i magistrati possono essere liberi di fare, forcare, disfare senza rendere conto a nessuno. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. C'è un altro argomento di oggi, si torna a parlare dell'omicidio di Cogne perché c'è attesa per la decisione del Tribunale di Bologna sulla detenzione domiciliare di Anna Maria Franzoni. Se la richiesta dei suoi legali, appunto quella di arresti domiciliari, venisse accolta, la donna condannata a 16 anni per l'omicidio del figlio Samuele, vi ricordate, verrebbe scarcerata. I periti escludono la possibilità che la Franzoni possa uccidere di nuovo, ma la Procura Generale resta contraria al suo ritorno a casa. Speranzosa e ottimista sono queste le sensazioni di Anna Maria Franzoni a proposito della richiesta di detenzione domiciliare avanzata dai suoi legali. A descriverla in questo modo è l'avvocato Paola Savio, che subito dopo l'udienza al Tribunale di Sorveglianza di Bologna si è detta anche lei più che possibilista. La speranza c'è, meno male, ha dichiarato il legale, riferendosi all'eventuale ritorno a casa della sua assistita. Punto forte della richiesta è l'esclusione categorica della possibilità di recidiva. In altre parole, secondo i periti, 12 anni dopo il delitto, Franzoni non ucciderebbe una seconda volta uno dei suoi figli. Proprio lo stretto contatto con la famiglia, sostengono gli esperti, la psicoterapia e la fine della tensione dei media sul suo caso potrebbero aiutarla a riprendersi. Contraria la Procura Generale, che vorrebbe che la psicoterapia fosse iniziata e conclusa dentro al carcere. Il giudice si è riservato di decidere nelle prossime ore, che potrebbero diventare giorni. Lucia Maffei, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Di questo parleremo poi stasera, in effetto notte, con uno dei periti che ha condotto questa perizia psichiatrica su Anna Maria Franzoni. Intanto ci spostiamo all'estero, parliamo dell'incubo di Meriam che non finisce purtroppo, quella della donna sudanese condannata a morte per apostasia a maggio, liberata ieri dopo l'annullamento della sentenza da parte della Corte d'Appello e poi arrestata di nuovo oggi all'aeroporto insieme al marito mentre tentava di lasciare il paese. L'ambasciatrice sudanese in Italia dice che è soltanto stata una questione di controllo di documenti, però la questione non sembra finita qui e anche questo argomento affronteremo dopo. Siamo sulla cronaca, si sono aggravate le condizioni di Ciro Esposito, il tifoso ferito a colpi di pistola fuori dall'Olimpico prima della finale di Coppa Italia. Non ci sarebbero ormai più speranze per Ciro Esposito. I medici del Policlinico Gemelli lo hanno dichiarato clinicamente morto. Le sue condizioni sono precipitate nelle ultime ore dopo l'aggravarsi di un'infezione polmonare. È in coma irreversibile, ma il suo cuore batte ancora. Speriamo in un miracolo, hanno fatto sapere i familiari. Al 27enne, tifoso napoletano, è stata impartita l'estrema unzione. A vegliarlo in ospedale ci sono i genitori, la fidanzata, i parenti più stretti. A tutti diciamo basta violenza e l'appello lanciato dallo zio nel timore di nuovi scontri. Ciro Esposito era stato ferito a colpi di pistola lo scorso 3 maggio all'esterno dello Stadio Olimpico prima della finale di Coppa Italia fra il suo Napoli e la Fiorentina. Del suo ferimento è accusato un ex capo ultra della Roma, Daniele De Santis, che ora rischia l'incriminazione per omicidio. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E poi c'è la svolta sul caso del bambino di 3 anni travolto e ucciso sulle strisce pedonali a Ravenna. Un uomo di 35 anni di origini bulgare è stato arrestato con l'accusa di omicidio colposo e omissione di soccorso. Sotto la sua auto sono stati trovati dei segni compatibili con l'incidente avvenuto domenica sera. Ora invece, prima di sentire se ci sono degli aggiornamenti per voi che state viaggiando, tra quelli che ascoltano molte persone viaggiano, volevo vedere un po', aprendo la pagina di Facebook, mi si era chiusa, i vostri messaggi sulla partita, i commenti sulla partita di oggi. Mi sembrano diversi e mi sembra anche che si possa essere d'accordo, insomma, per esempio questo durissimo di Claudio che scrive: piccoli uomini in campo saranno grandi sulle spiagge VIP della Sardegna. Posso dirvi che sarò cattiva, però mi sembra una considerazione abbastanza azzeccata. E poi Giuseppe dice: la nazionale è come il resto del paese. Vittorio: pagateli di meno, correranno di più. Poi gireremo magari questi messaggi anche a Dario Ricci. Relishan dice: chi gioca male merita di perdere, c'è poco da aggiungere. Effettivamente. Per Nicola: braccia rubate all'agricoltura, tutti a casa. Donata scrive: una sconfitta meritata. Gli altri magari ve li leggo tra poco, sono tanti. Sentiamo appunto se c'è il traffico. Sì. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Eccomi da voi, cari ascoltatrici e cari ascoltatori. Adesso ve le riassumo brevemente le notizie, anche se quella principale prende un po' tutti lo spazio dei titoli praticamente, ma poi proprio su questa tra pochissimo ritorneremo con il nostro inviato in Brasile Dario Ricci. Allora, i titoli sono questi praticamente. Ai mondiali la Caporetto dell'Italia, azzurri fuori, si dimettono Prandelli e Abete. Il presidente della FIGC, della Federazione Calcio Italia, sconfitta 0-1 dall'Uruguay, gravi errori dell'arbitro secondo i giocatori e anche secondo Prandelli. Poi c'è il pressing di Renzi sull'Unione Europea, sulle riforme in cambio di flessibilità, mentre la Bundesbank, la banca centrale tedesca, richiama comunque a rigore il presidente del Consiglio e anche la stessa Angela Merkel, che ieri aveva parlato di apertura di flessibilità. Renzi comunque oggi ha presentato il suo programma per il semestre di presidenza italiana, 1000 giorni per le riforme. Ciro Esposito in fin di vita, la famiglia dice basta violenza, il tifoso del Napoli è in coma in ospedale, si temono raid degli ultras. E poi direi di fermarci qui per il momento e di collegarci subito con Dario Ricci. Dario. Eccoci Roberto da Natale, come anticipavi nei titoli, il gol di Godin, l'arbitraggio di Moreno e un'Italia per lunghi tratti deludente hanno squassato le fondamenta del calcio italiano, perché Cesare Prandelli, subito dopo la sconfitta, pochi istanti fa in conferenza stampa, ha annunciato le sue dimissioni irrevocabili, irrevocabili anche le dimissioni di Giancarlo Abete, il presidente federale, il presidente della Federcalcio. Quindi saltano le fondamenta del calcio italiano, con un Prandelli che ha detto: sono io responsabile del progetto tecnico, questo progetto tecnico è fallito e quindi è giusto che io ne risponda. Così come ha anche stigmatizzato, come dopo il rinnovo del contratto, che come sai sarebbe dovuto scadere tra 2 anni con gli europei francesi, Prandelli ha stigmatizzato l'attacco che ha avuto da buona parte dell'opinione pubblica per il valore del contratto stesso, e quindi ha detto: in realtà io pago le tasse, pago regolarmente tutti le mie spettanze, quindi non ho capito questi attacchi, ed è quindi una considerazione che si somma al fallimento di questo mondiale. Un Prandelli che lascia e che chiaramente sembra ben determinato nel mantenere questa posizione, così come lascia quindi Abete, e di fatto quel gol di Godin fa saltare proprio l'impalcatura del calcio italiano, che adesso è all'anno zero. Scusa Dario, io non so quanto tu puoi restare, perché so che devi prendere un aereo velocemente e devi spostare una parte all'altra del Brasile. Puoi restare ancora un po'? Sì, qualche microminuto. Microminuto. Senti, allora diciamo le voci le faccio sentire dopo alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Ti volevo solo leggere velocemente alcuni messaggi, li rileggo alcuni in particolare degli ascoltatori per vedere se sei d'accordo. Claudio dice: sono stati piccoli uomini in campo, saranno grandi sulle spiagge VIP della Sardegna, e io non gli avevo dato tutti i torti. Giuseppe dice: la nazionale è come il resto del paese, questo è un po' di scoramento generale, diciamo. Vittorio: pagateli di meno, correranno di più. E Relishan dice: chi gioca male merita di perdere, c'è poco da aggiungere. Cosa aggiungi? Ma io guarda, aggiungo poco a quest'ultimo messaggio, che mi sembra il più sensato tra tanta demagogia che secondo me anche poco edificante, insomma, tutto sommato il fatto pagano tanto, corrono poco. Ma un po' viziati sono i giocatori, però forse a volte troppi super aggettivi. Onestamente i giocatori sono anche quelli che hanno vinto, sono diversi, fanno la stessa vita, e Suarez, che ha morso Chiellini, guadagna come ingaggio il triplo di Chiellini, quindi che vuol dire? No, no, in quel senso se la devono decidere un po' loro, l'Uruguay sarebbe dovuto uscire eliminato dalla partita, però vabbè, parliamo dei nostri. Discutere della demagogia sul concetto di calciatore in sé è un po' vago, insomma, spesso sono le stesse persone che quando vinciamo, arriviamo secondi, si tuffano in San Babila o a Fontana Trevi. A Milano, dicevo. Non è il mio caso, però la pensiamo diversamente. Dario, io so che se devi prendere un pullman e poi un aereo al volo, quindi se non puoi restare, ti lascio andare. Ma guarda, dai, se c'è qualche altro messaggio, chiacchieriamo un altro Ce ne sono tanti. Non vado avanti. Ce ne sono tanti. Vittorio dice: tutti gli italiani uniti solo contro l'arbitro sudamericano. Nel prossimo campionato del mondo chiediamo un arbitro eschimese. Dice Vittorio. Può essere un'idea, certo. Questo che è stato un altro Moreno, anche se si chiamava Rodriguez, una mano non ce l'ha data perché l'espulsione di Marchisio per faccia esagerata in una partita comunque, come si dice, un tempo molto maschia, nel senso che comunque i colpi provvisi non sono mancati. Poi certo c'è da stigmatizzare, e speriamo che lo faccia la FIFA e ponga fine al suo mondiale, il morso di Suarez a Chiellini, che è una cosa indegna di qualsiasi sport. Suarez, un po' cannibalesco, mi è sembrato un po' cannibalesco, questi uomini primitivi. Già lo aveva fatto in passato, subito una lunga squalifica in Premier, si è ripetuto. Speriamo che il suo mondiale anche qualcosa in più sia finito adesso, ma non lo dico chiaramente da tifoso, ma perché è un gesto pigliacco, chiaramente. Sì, certo, no? Una perizia psichiatrica la farei, però, per sicurezza. Io mi chiedo, cosa mai facciamolo giocare con la maschera come Hannibal. Mi sembra che il rischio ci sia. E poi invece c'è dunque Mariano, non si capisce, c'è dei fumetti strani. Stefania è una donna e difende i calciatori, dice: il nostro è un campionato duro, quest'anno dovevamo preservare i giocatori migliori. Si vede che sono stancati, secondo Stefania, però insomma d'altronde fanno quello di mestiere. La stagione è stata impegnativa, ma dagli altri campionati giocano spesso anche più di noi, quindi in quel senso è più forse corretto focalizzare l'attenzione sul fallimento di questo progetto tecnico di un Prandelli che alla fine forse è andato anche lui un po' in confusione, no? Alternando tante Italie diverse e anche tanti protagonisti che poi non hanno risposto, perché quelle scelte che ha fatto, a partire da Balotelli, oggi sostituito nell'intervallo perché stava rischiando di farsi cacciare lui stesso perché è molto falloso, eccetera eccetera, già ammonito, a partire da Balotelli, a Cassano, a Cerci, molte delle sue scommesse non hanno pagato, e quindi Prandelli ha scelto di prendersi le sue responsabilità. Però un uomo pieno di dignità, anche se qui in uno dei commenti che ha fatto nel dopopartita ha dato un po' colpa anche lui all'arbitro. Lo sentiamo un attimo? Sentiamo. Non hanno mai tirato in porta, poi lo so, il fallo di Marchisio, ma è andato per coprire la palla. È dall'inizio della gara che l'andamento era questo, sapevamo, ma eravamo in partita, eravamo in gara. È assurdo rimanere in 10 in una partita come questa. Crede che tra l'espulsione di Marchisio e il morso di Suarez a Chiellini non visto, l'arbitro abbia determinato la partita? Assolutamente sì, assolutamente sì. Quindi si è preso le sue responsabilità, si è dimesso, che non è da tutti in Italia, diciamo, Prandelli, a largo raggio, sto parlando, e poi ha detto che però l'arbitro, tu che hai visto bene la partita, effettivamente dicevi potrebbe essere un Moreno di qualche tempo fa. Sì, sì, diciamo che non sentiamo la mancanza di un clone, visto che già l'altro in quella partita e poi anche dopo ne ha combinate davvero tante. Inevitabilmente sì, l'espulsione di Marchisio, anche se ha avuto una dinamica particolare, l'arbitro può aver visto qualcosa di particolare, un colpo magari più duro di quello che è stato, sicuramente ha condizionato la gara e forse poteva anche starci. Certo, è pure vero che, come ricordavamo prima nello speciale, anche col contributo importante di Giovanni Caguano, laddove la testata di Zidane nel 2006 era stata di fatto decisa dal replay TV, no? Perché il quarto uomo aveva rivisto la scena e quindi aveva portato all'espulsione di Zidane. Certo, a questo punto sarebbe stato meglio rivedere anche il morso di Suarez e a quel punto sanzionarlo. A parte che i canini di Suarez sono ben impressi sulla spalla di Chiellini, ho visto delle foto piuttosto raccapriccianti qualche istante fa. Sì, sì, l'ho vista una anch'io, effettivamente un cane forse avrebbe inciso meno, probabile, un tipo bulldog. Devo dire che da appassionato di calcio, tu lo sai bene, purtroppo anzi sconti molte delle vie di questa passione, dispiace vedere un campione così, parlando di Suarez, scendere a questo livello, però oggi ha ragione lui perché il suo Uruguay va avanti. Ma ha ragione lui, no, magari il resto della squadra sì. Senti Dario, sentiamo anche Chiellini, vittima del morso, cosa ha detto? Sentiamolo. Purtroppo si parlerà dell'eliminazione, certo, dell'Italia, ma oggi si parla di una partita chiaramente condizionata dall'arbitraggio. Cioè, sono episodi che nel calcio fanno la differenza e oggi c'è stata una disparità di giudizi incredibile. L'espulsione di Marchisio credo che sia ridicola, ma ancora di più è ridicola la non espulsione di Suarez. Chiaramente c'è volontà di tutelare i campioni, ma così non si tutela il calcio, non si tutela la giustizia. Eccolo qua, lo stiamo rivedendo, e questo è il morso. Ma è chiaro, è netto, è stato che sia qualsiasi cosa valuta l'arbitro, purtroppo deve fischiare rosso. C'è anche una chiara simulazione dopo, perché sa benissimo di aver fatto qualcosa che non andava fatto. Ora si tocca i denti, si tocca i denti, purtroppo sono episodi che condizionano la partita. Ma l'arbitro aveva visto anche prima, ma. Se non c'è volontà, ti è rimasto il segno. Ma ora non so se mi è rimasto il segno, non è che mi ha cavato, certo, m'ha tolto no, certo, di pelle, però il gesto è netto. Ma l'arbitro visto che cosa l'ha detto? Visto Giorgio? Che gli arbitri dicono tanto che si documentano dei giocatori, dovrebbero anche documentarsi, e sono episodi abbastanza chiari. Abbastanza chiari, se ho perizia psichiatrica ho avuto un impeto di passione per Chiellini, Suarez, non si capisce bene, magari ognuno ha le sue interpretazioni delle cose. È stato molto onesto, sì, morigerato. È anche bravo a mantenere la calma sia in campo, perché sì, è vero, poteva anche scatenarsi a sua volta con un altro morso sul naso. E anche con queste parole nel dopogara, insomma, molto lucide, civile, una via di uscita, no, alla classe arbitrale, perché insomma certi personaggi hanno questa abitudine. Abbiamo il sanguinario, di solito lo chiamano il pistolero Suarez per appunto la sua abilità in zona gol, adesso lo chiameremo Dracula e così sarà un po' più facile identificarlo. Osserveremo con attenzione i suoi canini la prossima volta. E un Buffon, il portiere, lo vogliamo sentire anche Buffon che cosa ha detto dopo la gara. L'arbitro sicuramente non ci ha dato una mano, quello è poco ma sicuro, però alla fine non si può sempre stare a recriminare, darle colpa ad altri, è giusto anche ogni tanto assumersi le proprie di colpe, soprattutto quando si viene da due sconfitte consecutive senza neanche fare un gol, per cui insomma sicuramente anche noi ci abbiamo messo del nostro. Ecco, è stato onesto Buffoni questo, sicuramente anche noi abbiamo messo del nostro, non fare neanche un gol. Sì, tra l'altro i migliori poi sono stati Buffon a 36 anni, quando ha scelto dove partire con l'Inghilterra, e quel Pirlo che oggi probabilmente ha giocato l'ultima partita in nazionale perché aveva preannunciato il ritiro dopo il mondiale, il ritiro dalla maglia azzurra, anche se fa rinnovato per altri 2 anni il contratto con la Juventus. Mi dispiace che i campioni di questo livello debbano chiudere in un pomeriggio così amaro, ecco. Ti leggo altri messaggi, Dario, se puoi stare ancora 2 minuti, siccome sono tanti. Stefano, sì, persona che proprio 2 minuti, ringrazio anche per la pazienza sia degli ascoltatori, ma stiamo lavorando per loro perché stiamo facendo i servizi per GR24 eccetera, quindi insomma, povero Dario Ricci. Attento a Suarez se dovesse girare da quelle parti. Comunque, Stefano scrive: peccato, sconfitti sul piano psicologico. Raffaele dice: non tiriamo in porta, giusto andare a casa. Un po' la conclusione anche di Buffon. Danilo dice: umanamente mi dispiace per Cesare Prandelli. Anche a me, devo dire, è un allenatore e un uomo del calcio abbastanza tipico rispetto ai tanti maci un po' montati, devo dire, da parte mia, almeno questa è la mia opinione. Flavio dice: senti, Flavio Perpesso bevi l'acqua, si chiama così, Perpesso bevi l'acqua. Dice: squadra piccola, allenatore confuso, preparazione insufficiente, codice etico ridicolo. Che ti pare di questa sintesi di Flavio? chiaramente i temi sono amplissimi. Sicuramente qualcosa si è rotto in questa squadra e nella simbiosi tra allenatore e squadra, così come al tempo stesso probabilmente è anche vero che il materiale umano su cui Prandelli ha lavorato, usiamo il passato prossimo perché probabilmente non lavorerà più visto le sue dimissioni, non è di quel livello della generazione precedente, quella che ha fatto l'ottimo mondiale rovinato da Moreno nel 2002 e poi era stata campione del mondo nel 2006. Già nel 2010 avevamo visto come certi campioni stessero invecchiando, no? E adesso il rinnovamento è molto difficile. Invecchiano bene, gli altri ringiovaniscono male. C'è un audio anche di Prandelli che dice per quale motivo ha tolto Balotelli dopo il primo tempo e qualcuno l'ha criticato. Sentiamo. Balotelli non riesce mai a capire quando è calmo e quando è nervoso. Io lo consideravo e lo considero un giocatore importante, ma che deve dare una garanzia di equilibrio. Fine primo tempo l'ho sostituito perché avevo paura di rimanere in 10. Deve raggiungere ancora un po' di maturità Balotelli, che dici Dario? Secondo te è stato un gesto sventato di Prandelli? No, io sono stato tra quelli che ho applaudito la sostituzione perché si era visto un Balotelli che non era nelle sue giornate migliori, non era riuscito a calarsi nella partita, non era riuscito a entrare in sintonia con la squadra, ha fatto un paio di falli stupidi, dopo l'ammonizione un tocco di mano che poteva già costargli l'espulsione, quindi aveva fatto bene Prandelli, era plausibile in qualche modo anche la squadra che aveva messo in piedi nel secondo tempo, seppur con un centrocampista in più, eccetera eccetera, ma poi con l'espulsione di Marchisio, questo piano tattico che era veramente un equilibrio molto complesso da tenere in piedi è saltato e alla fine abbiamo provato a fare la linea Maginot e come la Maginot vera è stata girata da neanche da un colpo di testa, da un colpo di spalla di Godin, che però in questa situazione è molto molto bravo e è riuscito a insaccare questo 1-0 decisivo. Enzo 64, così si firma, dice Prandelli e Abete persone serie, finalmente qualcuno si prende qualche responsabilità, Balotelli invece un bimbo. Poi Elena dice si sentono troppo signori del calcio e vai con la spending review, quindi qualcuno dice un po' di forbiciate anche da quelle parti. Claudio, è prevedibile un'Italia da dimenticare. Domenico dice non siamo usciti oggi dal mondiale ma con la sconfitta contro il Costa Rica oggi è solo l'epilogo. L'ha detto anche Prandelli. Detto questo, evidentemente questo Costa Rica malissimo non è, perché gli stessi discorsi li stanno facendo li stanno facendo gli inglesi, perché pure loro sono usciti dal mondiale e il Costa Rica ha battuto proprio anche questo Uruguay che oggi ci ha eliminato, quindi comunque in un contesto ambientale particolare, come abbiamo detto tante volte, con una squadra bella allenata, il Costa Rica è stata la rivelazione e noi abbiamo pagato su questo lo sforzo di questa clamorosa sorpresa. Così è andata, caro Dario Ricci, io ti lascio i tuoi pullman, i tuoi aerei, le tue attività brasiliane. Vi ringrazio, buone notte a te, grazie. Ciao Dario. Ciao. Bene, arrivano ancora i vostri messaggi, però adesso ci dobbiamo prendere questa pausa, ognuno rifletta come vuole, c'è sempre la pagina Facebook di Fettonote per i vostri commenti, qualcuno anche sul 349-238-6666, e per esempio dice Clotilde, spero che la sconfitta calcistica coincida con l'inizio della fine dell'usurpatore presuntuoso, non so, mi pare che si riferisca a Renzi, ma mi sembra che c'entri un po' poco con questo, A tra poco. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi, continuano ad arrivare i vostri messaggi sia sulla pagina Facebook di Effetto Notte sia al 349-238-6666, il numero per gli sms. C'è Lucio e addirittura dice ho guardato Rex, quindi il telefilm, meglio che guardare quattro pirla che si calciano la vita fissi dietro un unico pallone, questo è un punto di vista. Qualcuno dice mi dispiace per Prandelli, persona per bene molto superiore all'ambiente del calcio, quello che dicevo e pensavo anch'io prima. Comunque adesso direi passiamo a un altro tema tra pochissimo, poi se c'è tempo leggerò ancora alcuni dei vostri messaggi, ma vi ricordo quali sono state le notizie principali di questa giornata. Cominciare naturalmente dalla sconfitta mondiale per l'Italia. L'Uruguay manda a casa gli azzurri con 1-0. Prandelli si dimette e lascia anche Abete. Unione Europea, Renzi presenta il programma della presidenza italiana e dice: non vogliamo vivere l'Europa come fosse una vecchia zia noiosa. Omicidio di Cogne, i periti assicurano che non c'è rischio di recidiva e chiedono la detenzione domiciliare. Il procuratore generale dà parere contrario, ma intanto il tribunale si riserva di decidere. Gli scontri di Coppa Italia a Roma, in coma irreversibile Ciro Esposito, il tifoso che fu ferito a colpi di pistola fuori dall'Olimpico prima di quella finale. In Nigeria Boko Haram ancora in azione, il gruppo integralista rapisce altre donne e poi bambini nel Borno. In Sudan continua l'incubo di Meriam, è stata liberata ieri e oggi fermata di nuovo all'aeroporto. Vi dicevo, si è tornato a parlare oggi del caso Franzoni perché si è discussa nell'udienza che si è tenuta al Tribunale di Sorveglianza di Bologna oggi la perizia psichiatrico-criminologica su Anna Maria Franzoni per la richiesta da parte dei suoi legali di detenzione domiciliare. Sapete che è stata condannata in via definitiva a 16 anni per l'uccisione del figlio Samuele avvenuta a Cogne nel 2002. Il tema della recidiva è stato categoricamente escluso, così ha detto la sua legale Paola Savio al termine di quest'udienza. Entrambi periti, sia Augusto Balloni che Pietro Pietrini, consulente di parte, unitamente a Giuseppe Sartori, docente dell'Università di Padova, che hanno curato la consulenza tecnica di parte, hanno segnalato come un passaggio molto importante sia il fatto che la donna non possa più uccidere il proprio figlio. E Giuseppe Sartori è proprio qui in collegamento. Buonasera, professor Sartori. Buonasera. Docente di neuropsicologia forense all'Università di Padova, quindi lei ha fatto parte del gruppo di consulenti per questa perizia psichiatrica e quindi... Sì, certo. Ecco, qual è stata la sua conclusione? Io l'ho un po' sintetizzata. La conclusione del perito che trova concordi i consulenti di parte è che sostanzialmente non vi sia un quadro psicopatologico significativo che può rendere la signora Franzoni a rischio di ripetizione non solo di un reato specifico, come viene chiamata la pericolosità sociale specifica, ma anche la pericolosità sociale generica, cioè il fare atti antigiuridici con una probabilità molto elevata. Questo, professor Sartori, dipende dal fatto che l'infanticidio da parte delle madri è effettivamente un tipo di reato di omicidio molto particolare, distinto dagli altri tipi di omicidio, o proprio in modo specifico anche proprio su Anna Maria Franzoni è chiaro che è stato quel momento particolare della sua vita, una specie di, come lo si può chiamare, questo gesto da parte delle donne autodistruttivo ma che non si ripeterà, come lo legge? Il perito si è pronunciato in questo senso, nel senso che ha identificato in quell'evento successo quella mattina di gennaio una situazione un po' irripetibile e venendo a mancare una psicopatologia significativa ha ritenuto di non identificare una probabilità significativa di comportamenti antisociali. L'oggetto della discussione è stato poi anche l'aiuto mediante aiuto di tipo psicologico che la signora Franzoni ha già iniziato a fare e che continuerà a fare in vista di un futuro reinserimento. Professor Sartori, però l'ha vista anche lei, ha potuto anche lei analizzare la situazione psicologica della signora Franzoni. Quindi il suo quadro, perché lei è consulente di parte, in che senso? Io sono consulente della difesa Franzoni ormai dal 2009 assieme al professor Pietrini, dal cosiddetto Cogne Bis. E quindi lei conferma le cose che ha detto sinora, che hanno detto i periti? Sì, certo, sì. Che non c'è pericolo di recidiva? Che c'è convergenza su questo punto, ecco. Però lei ha sentito che il sostituto procuratore generale Attilio Dardani ha dato oggi parere contrario alla domanda di detenzione domiciliare. Adesso il tribunale si riserva di decidere, ma questo già insomma è un po' un intoppo, no, su questo percorso che voi volete avviare. Sì, nel senso che il procuratore generale ha ritenuto di condurre a termine la psicoterapia preliminarmente alle misure alternative al carcere, quindi in pratica lui dice non facciamo la psicoterapia mentre la signora usufruisce misure alternative, ma prima facciamo la psicoterapia e poi facciamo le misure alternative. È tutta una discussione attorno alla sequenzialità, che cosa viene prima in sostanza. Intanto il tribunale entro quanto dovrebbe decidere, che lei sappia? Non saprei dirlo esattamente, l'avvocato parlava di un po' di giorni. Mi dica una cosa, professor Sartori, adesso lei appunto, visto che è docente di neuropsicologia forense, allora è chiaro, come dicevamo prima, che io stessa sottolineavo, si tratta quello dell'infanticidio da parte delle madri, di un reato molto molto particolare, insomma distinto dagli altri, però avendo altri figli in famiglia, le chiedo, reintroducendo diciamo così una madre in famiglia con altri figli piccoli, l'equilibrio di questi figli nella consapevolezza prima o poi che la madre ha ucciso un fratellino, che cosa può maturare dentro l'identità di questi bambini? Questa osservazione che lei fa è stata approfondita in sede di perizia. Innanzitutto è stato osservato che la signora Franzoni ha vissuto per un lungo periodo con i due figli, anzi diciamo che quello più grande, che ormai ha 19 anni, ha avuto uno sviluppo assolutamente regolare e quindi diciamo non ha avuto conseguenze molto significative, anche se, come potete immaginare, è stato coinvolto molto approfonditamente sulle vicende giudiziarie della madre. E l'altro? Il piccolino è un po' la questione più diciamo così importante, nel senso che uno degli argomenti è proprio quello di poter permettere al bambino piccolo, più piccolo, di poter diciamo così sviluppare un rapporto con la madre in un periodo importante. Madre che comunque aveva a disposizione fino a una certa età, adesso non mi ricordo esattamente quando, mi pare fino ai 5-6 anni. Quindi comunque secondo lei, professore, ritornando a casa, gli arresti domiciliari per scontare il resto della pena, può comunque non compromettere l'equilibrio familiare, l'equilibrio dei figli? Ma sa, di fatto la signora già adesso trascorre periodi a casa. Di conseguenza stiamo parlando di un allungamento di un periodo che in questo momento già esiste, perché la signora fa adesso non mi ricordo esattamente, ma usufruisce dei periodi premio a casa di weekend lunghi. Lei ricorda quanti anni ha scontato dei 16 anni finora la signora Franzoni in carcere? Mi pare che siano 9 o 10, 8, 9, dagli 8 ai 10, non sono sicuro. Quindi adesso non resta che aspettare la sentenza della decisione del Tribunale di Sorveglianza per capire se il resto della pena può essere passato a casa. Direi di sì, certo. In questo momento la signora dorme in carcere, lavora fuori e trascorre a casa sua per brevi periodi di permessi. Io la ringrazio, professor Giuseppe Sartori, grazie di essere stato qui stasera. Grazie, buonasera, buon lavoro. Grazie, buon lavoro a lei. Aggiorniamo chi viaggia, poi ci sono altri temi. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Eccole qui brevemente le notizie. Abbiamo già detto, la Caporetto degli azzurri che sono fuori dai mondiali si dimette, Prandelli, azzurri battuti dall'Uruguay, e anche Abete si dimette. Italia sconfitta 0-1 dall'Uruguay, gravi errori dell'arbitro secondo gli azzurri. E poi il pressing di Renzi sull'Unione Europea per le riforme, dice, in cambio di flessibilità faremo le riforme. Intanto però la Banca Centrale Tedesca richiama a rigore nonostante l'apertura di ieri di Angela Merkel. Renzi parla di 1000 giorni per le riforme, Grillo attacca sul Senato, e anche sempre aperta un po' la questione dell'immunità alla vigilia poi dell'incontro che ci sarà domani tra PD e Movimento 5 Stelle. Europa 24 notte. E lo anticipavo un po' nei titoli e ne parliamo adesso con Sergio Nava, che è venuto a trovarmi qui in studio. Ciao Sergio. Ciao. Sergio, allora, ieri tutti sembravano abbastanza ottimisti sul fatto che Angela Merkel, l'emblema del rigorismo europeo, teutonico soprattutto, aveva detto, ma insomma si può pensare a una maggiore flessibilità nell'usare il patto di stabilità europeo. Però oggi subito, non so se lei, se gli fanno il gioco delle tre carte, il ministro Schäuble tedesco ha detto no, qui altro che, qui si rischia che si allentano un po' le regole, poi dopo succedono le cose che sono successe in passato, e c'è anche la banca centrale tedesca che dice no, qui ci vuole il rigore, bisogna stare attenti, se no allargare troppo le maglie. Quindi questi messaggi contraddittori, diciamo che sono abbastanza tipici dei giorni che precedono summit importanti. Ce n'è uno in programma giovedì e venerdì a Bruxelles, in cui tra le altre cose si dovrà anche decidere il presidente della Commissione europea e dare anche un giro d'orizzonte a quello che sarà poi, a quelli che saranno i prossimi decisivi mesi. Comincia anche a luglio la presidenza italiana, quindi c'è un asse italo-francese ormai chiaro e delineato che chiede maggiori politiche orientate alla crescita, all'occupazione, in sintesi più tempo per rientrare nei margini, nei conti, nei tetti stabiliti dall'Europa, in cambio di riforme vere, che è quello che ha detto anche Renzi oggi. Dall'altra parte c'è chiaramente una Germania che ha anche qualche problema interno, perché il socio di minoranza del governo, la SPD, ha già fatto capire abbastanza che non le dispiace di seguire in qualche modo, di assecondare le richieste di Italia e Francia. Tra l'altro, appunto, ci sono due governi dello stesso colore, appunto di centro-sinistra, social-democratico. Per cui, quindi abbiamo una cancelliera, Angela Merkel, che già nell'ultimo anno ha dato un po', come dire, segno di assecondare la SPD su alcuni temi, come l'innalzamento di nuovo dell'età pensionabile e altre proposte che la stessa SPD aveva fatto in campagna elettorale, anche lo stesso salario minimo. Però c'è una Bundesbank molto forte, come il suo presidente Jens Weidmann, che dice attenzione, rafforziamo il patto di stabilità, e c'è Schäuble che in qualche modo è comunque un esponente dell'ala rigorista che con termini più diplomatici dice più o meno la stessa cosa. Quindi da un lato è anche abbastanza normale questo continuo ondeggiare di opinioni e di dichiarazioni che si sovrappongono poco prima di un vertice. Dall'altro c'è anche una Germania con un governo un po' spaccato, se vogliamo, tra due anime, e quindi è difficile capire quale sarà. Sicuramente ci sarà un qualche allentamento, probabilmente perché l'Italia tra poco assumerà la presidenza dell'Unione Europea, perché comunque ormai la pressione è molto forte. La Germania deve concedere senza però dare troppo, perché c'è quando Renzi parla di vestali dell'austerità, di profeti del rigore, effettivamente la Germania è il paese che custodisce quest'anima rigorista. Parla anche di vecchia zia noiosa, Renzi, lo sentiamo un attimo questo passaggio di oggi. Noi vogliamo smettere di vivere l'elenco delle raccomandazioni come una lista della spesa che tutte le volte ci capita tra capo e collo e che sembra essere una sorta di elenco di cose da fare, quasi che questo trasformi l'Europa in una vecchia zia noiosa che ci spiega i compiti da fare e che noi possiamo semplicemente cercare di elencare e nucleare, facendo poi di volta in volta il meglio che possiamo fare. Questo era un passaggio di Renzi di oggi. Poi ha anche parlato di tante altre cose, no? Naturalmente, Sergio, come tu sai, anche di questi 1000 giorni per le riforme, il suo programma interno ed esterno, anche insomma rivolto all'Unione Europea. Tu dicevi, in cambio della flessibilità, noi faremo queste riforme. Questo un po', ecco, quello che si rimprovera un po' a Renzi, se vogliamo, lo scriveva oggi il Financial Times nell'edizione online, il fatto che Renzi dà grandi orizzonti per l'Europa, però poi effettivamente ancora stringi non si è ben capito cosa voglia fare. Ci sono anche dei ritardi un po' allarmanti. Il sito della presidenza italiana, per fare un piccolo esempio, non è ancora online, il sito della presidenza italiana dell'Unione Europea. Gli stessi preparativi di questo semestre nostre sono veramente in ritardo mostruoso, e questo lo posso testimoniare in prima persona. C'è molta incertezza su quello che avverrà in questo semestre, quindi effettivamente c'è un Renzi che dà grandi visioni e dà una filosofia, come dire, di semestre, di cose da fare, di un'Europa da cambiare, puntando su crescita e occupazione, però nello specifico ancora forse un po' vago. Su una cosa però è riuscito effettivamente a dare un'impronta, è il fatto di parlare di contenuti e di nomine. Per esempio, la Mogherini, che potrebbe diventare la... Ma diciamo che se ne parla, l'Olanda avrebbe detto sì, questo lo si è saputo nelle ultime ore, però è anche vero che effettivamente si dice anche che il Presidente del Consiglio europeo dovrebbe essere socialista. A quel punto anche l'alto rappresentante di politica estera socialista sarebbe forse un po' un raddoppio difficile da digerire per il centrodestra. Quindi personalmente non la vedo così sicura questa nomina. Anche perché poi Federica Mogherini è veramente da pochissimo tempo nell'arena europea. Insomma, spostarla di lì diventerebbe forse un tempismo non così opportuno. Grazie Sergio Nava. Ciao Sergio. Grazie a voi. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. Adesso di parlare invece di due situazioni che riguardano due paesi africani che apparentemente distanti tra di loro, con vicende diverse, però c'è un filo conduttore. L'avete sentito già giorni fa, la storia di Meriam, questa giovane donna sudanese con due bambini, anzi l'ultimo l'ha dovuto partorire in carcere, che è stata arrestata e condannata a morte per apostasia, perché avendo un padre di religione islamica, che però l'aveva abbandonata anche da piccola, e avendo madre cristiana, aveva sposato un uomo, ha sposato un uomo cristiano, e quindi per questo era stata condannata a morte. Poi è stata liberata ieri, è arrivata la notizia che ha fatto il giro del mondo, ha sollevato gli animi. Oggi di nuovo è stata arrestata, anche se vedo un'agenzia di pochissimo fa, autorità sudanesi negli Stati Uniti dicono che in realtà non è stata arrestata oggi, ma soltanto fermata insieme al marito, e presto potrà partire, hanno assicurato così le autorità sudanesi, per una questione di controllo di documenti. E poi c'è l'altra vicenda invece, Boko Haram, di questo gruppo integralista in Nigeria, che già aveva rapito circa 300 studentesse alcuni un mesetto fa più o meno, e oggi ha rapito altre 60 donne più dei bambini. Quindi c'era stata questa pressione internazionale perché si liberassero queste studentesse che loro hanno promesso di vendere, di dare in spose forzate a qualcuno pur di non farle studiare, e invece oggi, mentre si pensava che ci fossero delle manovre finalmente per liberarle da parte della comunità internazionale, altri rapimenti. Chiedo allora di spiegarci un po' la situazione delle donne, soprattutto delle donne che sono quelle che pagano di più l'integralismo islamico e non solo, nei paesi africani, da Gianni Ruffini, che saluto. Buonasera Gianni. Buonasera. Direttore di Amnesty International Italia. Si può dire che due fatti così siano comunque un po' collegati, Gianni? Ma sicuramente mi permetto di dire, perché sembra proprio che le donne siano diventate l'obiettivo non solo e non tanto dei fondamentalisti, ma vorrei dire di tutti gli uomini che vivono in situazioni di violenza, e spesso, come sappiamo, anche nei paesi più stabili e più avanzati, la discriminazione nei confronti della donna, la violenza nei confronti della donna sono diventate una prassi. Vediamo quello che succede anche nel nostro paese, certo, col cosiddetto femminicidio, ecco. E quindi per quello appunto la situazione purtroppo è generalizzata con vari livelli, però per quanto riguarda questa situazione, per esempio in Nigeria, adesso in Sudan speriamo che abbiano ragione le autorità sudanesi a dire questione di poco sarà di nuovo liberata, però io fossi in lei me la darei a gambe il prima possibile fuori da quel paese. Per quanto riguarda la Nigeria, sembrava che si potesse far qualcosa per liberare quelle studentesse, invece ci sono altri rapimenti di donne oltre che di bambini. Dunque, mi permetto un attimo una nota sul caso di Meriam, perché ieri io avevo incontrato l'ambasciatrice sudanese in Italia proprio per sostenere la causa della liberazione di Meriam e della sua assoluzione dalle accuse, e l'ambasciatrice un'ora dopo il nostro incontro mi ha richiamato per comunicarmi appunto che Meriam era stata assolta, ovvero sia la sentenza era stata annullata in appello e Meriam era stata liberata. Oggi mi ha richiamato per aggiungere dettagli su questa questione dell'arresto e mi ha spiegato che l'arresto è dovuto a una irregolarità nei documenti di viaggio con cui Meriam si era presentata all'aeroporto assieme al marito, per questa ragione è stata fermata. E si spera appunto sia solo una questione di documenti. Perdonami Gianni Ruffini, sì. Dobbiamo purtroppo lasciarci, il tempo corre velocemente, però ho apprezzato molto il quadro generale che hai fatto della situazione delle donne un po' in tutto il mondo, ma ritorneremo ancora sulle ragazze nigeriane, invece sulle donne nigeriane. Grazie Gianni Ruffini di Amnesty International Italia. Grazie Gianni, grazie. Ci sentiamo noi tra pochissimo.